questa novità. Io che guardo i ragazzi di zona, ti giuro il mio amico è una scimmia che fuma. Tu sei furbo siccome una volpe, siccome la volpe non arriva all'uva. I ragazzi che migrano verso dei soldi più facili come le gru, e che bevono tutti dalla stessa pozza di fango siccome gli gnu. Una gabbia di leoni. Fra vroom, sì, sono fuori fra. Ho la collina in bocca, sa. So, è una giungla, amore mio. Con le uni, amore mio. Con i serpenti, amore mio. Con le dighe, amore mio. Oh, sì, amore mio. Con le uni, amore mio. Con i serpenti, amore mio. Con le dighe, amore mio. Oh, sì, amore mio. Sono la terza media, sì, ma una memoria come gli elefanti. Ho visti sbranarsi tra loro un po' di vite sette, si sì, un po' come i gatti. Gli stacchi la testa ma il corpo si muove, lucerto e l'appeso ai balconi. Li ho visti saltare nel cerchio di fuoco come nelle gabbie. Le una gabbia di leoni. Una gabbia di leoni. Una gabbia di leoni. Oh, è una giungla, amore mio. Con le uni, amore mio. Con i serpenti, amore mio. Con le dighe, amore mio. Sì, amore mio. Con le uni, amore mio. Con i serpenti, amore mio. Con le tigre, amore mio. Oh, sì, amore mio. Zebra, leopardo, cammello. Li vedi trasformarsi da larva ad insetto. Dormire testa in giù, sì, fra pipistrello. Loro che non vanno in letargo in inverno. Occhio, questi pungono. Sì, api, nel sottobosco, sì. Cinghiali, si nutrono di polli, sì. Come caimani, poi ballano sugli alberi come macaco. Oh, ragione, amore mio. Con le uni, amore mio. Con i serpenti, amore mio. Con le tigre, amore mio. Oh, sì, amore mio. È una giungla, amore mio. Con i serpenti, amore mio. Con le tigre, amore mio. Oh, è una giungla, amore mio.